Innanzitutto Sigrid Seravalli, che è figlia appunto di Luigi Seravalli, con la quale da parecchi anni ci unisce un'amicizia e un contatto, e anche scambi di idee, di opinioni. E Sigrid ha avuto un'idea che ci ha dato tanta forza, un impulso notevole per questa biblioteca anni or sono, nel 2004, perché poco dopo la dipartita del suo papà ha deciso di donare la biblioteca, l'intera biblioteca, a questa biblioteca qui, che all'epoca era veramente piccolina, in fase di avvio, e abbiamo avuto così anche un'iniezione di fiducia da parte dei cittadini e da parte della signora Seravalli, consegnandoci i libri. Sono parecchie migliaia, ne abbiamo catalogati tre quarti, diciamo, di questa dotazione, e quello che posso dire oggi, e me l'hanno confermato, e anzi questa notizia me l'hanno data proprio le mie colleghe, i miei colleghi, e l'ho confermato anche al dottor Carlo Martinelli, la estrema modernità e attualità di questi libri viene confermata proprio dal fatto che a prenderli in prestito e a consultarli sono i giovani, cioè la nostra fascia di utenti più giovane è quella che è più interessata a questa categoria, a questo tipo di raccolta di libri. Il che conferma appunto quanto anche è stato detto da Carlo Martinelli, che era una persona giovanissima. Giovanissima, che andava avanti, precursore di idee, di movimenti, individuava, stanava così dei movimenti nuovi, delle cose sul nascere, insomma, dei fermenti, e in effetti il riscontro l'abbiamo qua. Insomma, in questi anni di attività abbiamo visto che questa biblioteca è particolarmente utilizzata, e quindi in questo senso si torna anche a questa eredità che ci è stata lasciata, ed è stata lasciata soprattutto a un pubblico giovane, ecco, di studenti dell'Accademia, di design, e anche comunque di parecchi curiosi anche di quello che è il mondo culturale per intero, perché non possiamo dire appunto, ma questo poi sarà l'intervento di Carlo Martinelli, che il professor Seravalli si occupasse solo di un settore, ma era sicuramente un personaggio che spaziava in più campi. Io voglio ringraziare il pubblico che partecipa a questa serata in ricordo, sono passati 10 anni, e ringraziare anche in particolar modo i nostri due ospiti questa sera, la principessa De Rakkiewicz, che ha conosciuto e quindi ci restituirà anche un ricordo personale legato a Merano, e Carlo Martinelli, invece giornalista che del Trentino, collaboratore del quotidiano Il Trentino, e che con Seravalli ha avuto l'occasione di lavorare, di confrontarsi, e quindi ci aiuterà nel ricordo di questo grande personaggio. Vi ringrazio, abbiamo dei libri appunto come sempre. Li mettiamo a disposizione, li illustriamo, ci sono anche una bibliografia completa, e cedo la parola al nostro ospite. Grazie. Grazie. Ma dobbiamo usare il microfono o andiamo a voce tanto? Meglio? Meglio. Allora, comincia già il problema. Quindi è accesa. È accesa? No. La luce rossa è accesa? Non è così accesa. Sì? Secondo me no. Acceso? Sì. Bene. Ben trovati. No. Lo tiro via. Non è acceso. Adesso è acceso. Mi sarebbe piaciuto vedere Luigi Seravalli alle prese con le moderne tecnologie. Guarda, ci pensavo oggi mentre col mio iPad, si dice, fotografavo delle cose che lui aveva scritto, e fotografavo parte dei suoi libri. Mi sembrerebbe veramente indelicato iniziare avendo al mio fianco la signora De Rakkiewicz, che ha avuto, me lo confermava prima, questa sua prima impressione per aver conosciuto Luigi Seravalli ai tempi di Merano. fra il resto nel titolo del libro che ho volutamente lasciato lì dietro è citato proprio il padre di Mary de Rakewitz, e tutta la storia, la vicenda intellettuale e artistica di Ezra Pound Amerano in qualche maniera è poi venuta anche a intersecarsi con Luigi Serravalli, e quindi non certo lo togliamo dal piedistallo, sì. Non solo Luigi Serravalli ma anche Carlo Martinelli avrebbe seri problemi con le tecnologie, e avrebbe anche la signora, meno male. Ora rotondo dico agli studenti, e quindi mi sembrerebbe veramente indelicato e fuori luogo. E io ho conosciuto Luigi Serravalli, lo racconterò dopo, perché la mia frequentazione con lui è veramente curiosa, perché per 10 anni è stata non c'è stato nessun contatto fisico. Io ogni 2 o 3 giorni avevo a che fare con lui, perché allora curavo la pagina culturale dell'Alto Adige, allora si chiamava solo Alto Adige, in Trentino non esisteva il Trentino, poi hanno deciso di sdoppiarsi e di cambiare nome e io ho deciso di andare via dal giornale, ma questa è un'altra storia. E quindi la mia frequentazione con lui è stata, come dire, impalpabile all'inizio, ma poi lo racconterò. Invece, molto prima di me, in altri tempi, mi verrebbe voglia di dire, ma mi sembra sempre, ogni tanto mi sorprendo, dico, ma sto parlando come parlavano i miei genitori quando io ero un adolescente e dicevo, ma loro non capiscono niente, noi giovani, adesso mi sorprendo io a trattare la stessa maniera i miei figli. E vorrei evitarlo, però in tempi che mi piace pensare molto belli, molto vivi dal punto di vista intellettuale, della curiosità e anche della frequentazione fra le persone, allora forse, adesso è molto facile avere molti amici attraverso Facebook, ho l'impressione che allora delle amicizie anche culturali fossero invece vere e profonde, e io sono convinto che di questo Mary de Rakewitz può raccontarci qualcosa. Prego, grazie. Beh, è quello che mi fa piacere sentire, che sono i giovani che vengono a consultare la biblioteca, questo è molto importante per me, e credo che la parola chiave sia curiosità, perché appunto io sono qui in qualità di figlia, e le figlie sappiamo hanno dei problemi seri con i loro padri, hanno delle responsabilità grosse, a volte riescono a far infuriare mezzo mondo e tutte queste cose qui, perché ci sono diritti d'autore, privacy, nomi e tutte queste cose qui. Comunque, per arrivare a Serravalli, che noi oggi ricordiamo, lo ricordo come una persona che noi ragazzine non eravamo, ma ci eravamo sposati a 20 anni ed eravamo due assoluti sconosciuti che si sono messi in questo rudere lassù dove l'Alto Adige diceva che si dormiva sulla paglia, che è un poco esagerato ma poi neanche tanto. Comunque noi eravamo lì e per strada a Merano vedevo questo signore che camminava e mi ha fatto un'impressione, dico, beh, non è il solito tipo che si vede per strada, però non osavo avvicinarlo, logicamente non potevo fermare uno sconosciuto. E poi a un certo punto non è preciso tutto quello che lui dice aspettando Ezra Pound, perché Serravalli ogni tanto le sparava grosse, ma ed era lì la cosa divertente, aveva un senso humor incredibile ed era questo che me lo rendeva simpatico. Comunque un giorno arriva questo signore da noi e mi domanda, lei che cosa c'ha a che fare con Ezra Pound? Ho detto, sono la figlia. E lui dice, nient'altro. Nient'altro. Io sono rimasta di stucco, cosa potevo dire? No, nient'altro. Beh, così è iniziata la veridica storia con Serravalli. Ecco, tanto per incominciare a mettere i puntini. Iniziamo bene. Però c'era di mezzo Hemingway, che logicamente io sapevo chi fosse, conoscevo diversi nomi che lui citava, e comunque Serravalli era la sola persona a Merano che sapeva chi era Ezra Pound grazie a Hemingway. E poi ha incominciato a leggerlo, insomma siamo diventati amici, ma ci si vedeva di rado, anche perché io ero molto occupata con i ragazzini, con tante cose, noi dovevamo ricostruire un rudere e aspettare appunto mio padre che arrivasse. E intanto mio padre continuava a mandare persone molto interessanti, molto importanti per la nostra educazione. Noi si tirava avanti con paying guest, che allora grazie a Dio non si doveva firmare cartoncini e pagare la tassa di soggiorno e tutte queste cose che al giorno d'oggi non si può più avere ospiti in casa, anche se sono amici, no? Comunque ci sono stati molti scrittori, molti poeti, pittori da noi, che generalmente hanno pochi soldi, quindi si accontentavano anche loro della stupenda vista, e magari non avevano il frigo e non c'era telefono, non c'erano, cioè, tutte le comodità che al giorno d'oggi sono diventate un must. Serravalli, tutto qui, il resto lo dice lui nel libro. Quando poi mio padre è arrivato, Serravalli scriveva poesie e ha chiesto a me di chiedere una presentazione, e credo che sia veramente l'ultima presentazione che mio padre abbia fatto a un libro di poesie, quindi indubbiamente è un inedito, cioè grazie a Dio non è più un inedito, ma questo è anche una cosa importante. Che altro devo dire di Serravalli? Che le sparava grosse, che era divertentissimo, che con Shai Wheeler poi si organizzavano tutte queste mostre, tutte queste letture di poesia a Merano. E infatti adesso che a Merano si parla tanto della primavera culturale meranese, io non so, noi non ce ne accorgevamo tanto, perché la facevamo. Comunque adesso tutti sono diventati famosi, e tutti, la firma di tutti quelli che hanno firmato quel famoso manifesto, purtroppo sono una sopravvissuta, comunque ancora ci sono. Ecco. Grazie. Beh, questo riferimento è a Merano e la vita culturale, premesso, io sono di Trento, quindi non potrei mai permettermi di tranciare giudizi sulla vita culturale né di Merano né di Bolzano, se non per le letture o per gli amici di qui che ogni tanto mi capita di frequentare. Però l'impressione che ho avuto è, conoscendo un po' Merano, vedo qui Gigi Bortoli che è il mio punto di riferimento in quella città, curiosamente per uno strano scherzo del destino ho presentato più libri a Merano che a Trento, per delle coincidenze e delle congiunture strane. L'impressione che ho avuto occupandomi di a Merano in attesa di Ezra Pound, perché è un libro che ho visto proprio che abbiamo creato un po' assieme a Luigi Serravalli negli ultimi mesi della sua vita, la signora citava, mi permetto poi restituisco, la cosa a cui fa riferimento, la cercavo qui su internet ma non facevo fatica. Questo scritto di Ezra Pound, che non a caso è stato messo in controcopertina al libro, è appunto un inedito, uno scritto, un piccolissimo scritto, però che dà il senso un po' di un'epoca. Congratulazioni per la vivacità e chiarezza di impressioni, qui sto leggendo con gli occhiali non da lettura quindi sono già in crisi, nei mesi del suo esilio, quadri chiari e distinti, per la precisione dei colori e un'altra cosa, che nell'interno ci sarebbe anche la lettera in traduzione, sì. comunque dal letto giusto. Ecco, l'impressione che io ho avuto frequentando Luigi Serravalli, che finalmente avevo poi conosciuto di persona. Allora, ricapitoliamo e torniamo a prima e vi racconto questa mia strana frequentazione con Luigi Serravalli. Io ero un giovane cronista che nell'86 viene spostato da Trento, dove lavorava a fare la cronaca. Mi chiamano a Bolzano a lavorare all'Alto Adige e mi chiamano, la vita è strana, perché avevo chiesto nell'anniversario della morte di Stan Laurel, detto Stanlio, avevo pubblicato un articolo in terza pagina, allora c'era ancora la terza pagina nei giornali, e compreso l'Alto Adige. Olio e Stanlio sono due personaggi che mi affascinano per tanti motivi che non sto a spiegarvi, e comunque avevo scritto un articolo in anniversario per la morte di Stan Laurel. Era talmente piaciuto al direttore di allora dell'Alto Adige che mi chiamò in redazione a Trento e mi disse: ma scusa, mi occupavo di cronaca nera, di cose di città, ma come mai ti occupi, ti interessano anche queste cose? A partire dal fatto che prima di fare il giornalista avevo fatto il libraio per 4 anni, e questo forse qualcosa voleva dire, però dico, i libri, la storia, la cultura è una mia passione. Viene a lavorare a Bolzano, perché allora la pagina della cultura si faceva alla sede centrale di Bolzano per tutto il giornale. Quindi nell'86 arrivo a Bolzano, il primo anno mi hanno fatto fare gavetta, facevo la pagina degli esteri, l'economia, robe del genere, perché stiamo parlando di un'epoca preistorica del giornalismo, oggi bisogna pur dirlo, nel senso che il giornale veniva fatto completamente a Bolzano, comprese le notizie del mondo, arrivavano notizie di agenzia, e voi immaginate un giovane trentino che ogni giorno doveva scegliere se mettere prima la notizia della Casa Bianca o della guerra in Medio Oriente e cose del genere. Grande scuola comunque di curiosità, di vita, di stare dentro alle cose del mondo. Dopo un anno mi dicono, mi affiancano al mitico Umberto Gandini, personaggio che a Bolzano è conosciuto, critico teatrale, traduttore di livello internazionale, e mi dicono: cominci a occuparti delle pagine di cultura. E lì quel giorno mi si rivela questa cosa. Io leggevo ovviamente gli articoli di Luigi Serravalli che uscivano dalle pagine culturali, ma ho capito poi fisicamente come avveniva questa cosa. Arrivava, stiamo parlando di un'epoca in cui stiamo parlando, mi togli la parola di bocca e di vuoto, non c'era internet, non c'erano le mail, esisteva il fuorisacco. Il fuorisacco era una cosa piuttosto misteriosa, che era un bustone che faceva un percorso lungo la ferrovia, cioè Rovereto, Trento, Bolzano. A Rovereto, la redazione di Rovereto metteva delle buste con gli articoli, con le foto del giornale, le portavano alla stazione ferroviaria, lì veniva questo fuorisacco, veniva affidato ai postali, agli uomini del treno. A Trento, altro giro, arrivava il fuorisacco della redazione di Trento con altre notizie, altre foto. A Bolzano un fattorino del giornale lo prendeva, lo portava nella sede che allora era il numero tal della San Quirino, e lì gli articoli venivano. Era veramente un altro mondo. A Bolzano arrivavano anche gli articoli di Luigi Serravalli, che stava nel periodo in cui era già a Rovereto, secondo me, sì, anzi non secondo me, stava già a Rovereto, e arrivavano gli articoli nelle buste e finivano sul tavolo del redattore incaricato delle pagine di cultura, e lì io ho avuto a che fare con i mitici articoli di Luigi Serravalli, perché si apriva questa busta, ogni articolo suo era accompagnato da un bigliettino che non aveva nulla a che fare con l'articolo, era di solito un pensiero, una riflessione, una battuta. Se io ho un rimpianto, e mi sono veramente dato dell'imbecille parecchie volte, è di non aver conservato questi bigliettini, perché vi assicuro che oggi avere in fila 200-300, perché io non so quanti articoli ho passato di Luigi Serravalli, ma centinaia, e ogni articolo era accompagnato anche da battute fulminanti, da considerazioni sul mondo politico, su noi che facevamo il giornale, perché lui era anche uno, l'ha detto giustamente, cioè, se aspettavamo un giorno di più a pubblicare il suo articolo fremeva e si arrabbiava. Guai al cielo poi se qualcuno osava toccare e cambiare o cosa che per la verità io personalmente non ho mai fatto, ma non penso nessuno, perché Luigi Serravalli sapeva scrivere, cioè aveva un suo stile particolarissimo, che a me per esempio piaceva moltissimo, che addirittura penso che in qualche maniera abbia poi influenzato anche il mio modo di scrivere. E comunque c'era questa, questo era il mio lavoro, leggere i suoi articoli, metterli in pagina, scegliere un titolo, cercare le immagini che spesso lui stesso mandava. Lui era una persona molto precisa, quando andava a recensire mostre o festival cinematografici, si diceva prima del suo eclettismo, Serravalli scriveva di arte ovviamente, ma scriveva anche di letteratura, ma soprattutto di cinema, e di un cinema che non era certo il cinema di cassetta o il cinema di successo che andava per il momento. Lui frequentava i più inverosimili festival d'avanguardia del mondo, e io pensavo ogni tanto a questo giovane dentro, ma che fuori non era più giovane, di 60-70 anni, che andava a finire in mezzo a degli personaggi piuttosto eccentrici, registi d'avanguardia, che facevano delle robe abbastanza inverosimili e spesso anche, come dire, incomprensibili e piuttosto criticate, ma lui li frequentava con il suo stile, si faceva beffe di qualsiasi critica o di qualche storcia di naso, insomma. Per cui accompagnava anche i suoi articoli, ci forniva spesso materiale iconografico, e qui ho un ricordo, forniva le fotocopie di materiali iconografici, perché se oggi i cataloghi suoi e tutta la sua documentazione è appunto a disposizione dei giovani, e mi fa piacere che siano loro, non a caso, a ricercarla, è perché lui i libri poi li conservava, aveva penso una venerazione per la sua biblioteca. Insomma, questa cosa è andata avanti. Non parla di quell'affaretto adesso? Di quale? Quello che fa luce, quella luce là. Ah, del... No, vabbè, scusate. No, allora, no, volevo solo dire, lui andava anche a quei convegni sul cinema muto, che facevano in un posto non lontano, nel Veneto, in un piccolo posto dove? A Pordenone. Pordenone. Ecco, Pordenone, il Festival del Cinema Muto di Pordenone. Io ho sentito di Serravalli una volta a Chicago, perché c'era una mia amica che insegnava film history a Chicago, e ha detto che a Pordenone lei andava ogni anno a questi convegni dei film muto, aveva incontrato un signore che mi conosceva e che era di Merano. Ed era Serravalli. Quindi piccolo il mondo se si parla. Certo. Io ho un altro ricordo a questo proposito del film muto. Pochi anni, l'anno prima che, due anni prima che fosse inaugurato il MART Rovereto, c'era già però tutto il percorso di accompagnamento per questa inaugurazione. E venne a Trento l'allora ministro della cultura, non vorrei sbagliarmi, ma era Walter Veltroni. Venne a Trento al Castello del Buon Consiglio a parlare e quant'altro. E mi ricordo a un certo punto c'era Serravalli, che era seduto. Serravalli era un uomo enorme, era grande, era un gigante, con questi suoi cappotti, con queste sue cravatte sgargianti, sempre elegante. E me lo ricordo seduto a un certo punto, e qualcuno, forse addirittura la Gabriella Belli, la direttrice del MART, ha preso Veltroni e ha detto: ministro, questo è Luigi Serravalli, critico d'arte. E Veltroni si è avvicinato, ha cominciato a parlare, e io mi ricordo che la frase che ho udito distintamente, a un certo punto Serravalli ha detto: io a Bologna frequentavo le sale cinematografiche quando ancora non c'era il sonoro. E gli raccontava di Serravalli, era del 1914, il sonoro fosse arrivato 26, 27, 28, mi pare. Quindi raccontava, e lì veramente mi sembrava una storia dentro la storia, l'idea di quest'uomo che andava a Bologna a vedere i film di Charlie Chaplin ancora senza sonoro, probabilmente col pianista dentro magari, o l'orchestrina che accompagnava in qualche maniera queste proiezioni. Ciò malgrado, io sono ancora al periodo in cui per anni passo gli articoli di Serravalli, ma fisicamente non lo incontro mai, e non riuscivo a immaginarmi come fosse questo signore, perché nei giornali adesso è ancora peggio, devo dire, la tendenza, ma allora chi faceva la vita dentro redazione spesso aveva poco tempo di uscire. Io ogni tanto sorrido, penso che mi sono occupato di cultura di spettacoli per 20 anni all'Alto Adige e a Trentino, e avrò visto 2 spettacoli e un concerto, perché la sera ero lì che facevo i... scrivevo, spiegavo a tutti che cosa avrebbero visto il giorno dopo in regione, ecco. Ma non ho mai visto granché, finché poi finalmente un giorno decido di andare a una vernice di una mostra d'arte e lì a un certo punto, mentre sono lì, intuisco che c'è Luigi Serravalli, e quindi lo vedo e non ho il coraggio di presentarmi, perché non so, mi sembrava un personaggio tutto in questo, preso in questo suo mondo di una cultura onnivora. Lui era una persona di una cultura incredibile, che non faceva mai pesare peraltro le persone poi quando le incontrava, ma era una persona che frequentava tanto i classici quanto appunto le avanguardie, le cose più curiose. Poi alla fine questo incontro ovviamente alla fine ci fu, ci presentammo, lui andava avanti a collaborare, io nel frattempo ero tornato a Trento, perché poi il giornale, come dire, si stava modernizzando, cominciava a separare le edizioni, la pagina della cultura la facevamo per Trento, diversa da Bolzano, insomma cominciava tutta un'altra storia. Poi arriviamo a un'altra tappa invece, e siamo già quando Serravalli ormai, lui è morto 10 anni fa, pochi mesi prima dell'inaugurazione del MART, curiosamente. Un 7-8 mesi prima, per l'interesse proprio della figlia, ne parlavamo prima, c'è l'idea di fare questo libro, c'è il manoscritto delle storie meranesi, che dice la signora Draga, io le credo, Serravalli, non certo per malizia, ma per questo suo modo di fare, che era un modo, secondo me, altro di raccontare la cultura. Non c'è nessuna bugia lì dentro sicuramente, ma c'è questo suo modo candido. Io sono convinto che poi Serravalli sia fondamentalmente stato un personaggio molto naif, molto candido, che ha inventato, e la signora De Lacca l'ha detto molto bene prima rispetto all'ambiente culturale meranese. Negli anni 60 e 70, quando Serravalli lavorava a Merano, l'azienda di soggiorno, lui è stato l'inventore, secondo me, di come dire, delle presenze culturali in una città, i testimonial. Adesso, per avere un personaggio in una città, le aziende di turismo pagano, bisogna andare a cachet, uno per apparire in un certo posto deve essere blandito in mille modi. A Merano si sono inventati in quegli anni la capacità di avere lì pittori, attori, personaggi del mondo della letteratura, a gratis, mi ben voglia dire, fatto salvo il fatto che sono stato ospitato in albergo, ma non mi pare uno scandalo, sta di fatto che Merano era un crocevia culturale di livello incredibile. Poi cercherò di far scorrere qualche altra immagine, ma voglio dire, qui Serravalli è con personaggi che si chiamano Ungaretti, da Ungaretti è Renato Rascher, mi viene da dire, voglio dire, senza nessun problema di cultura alta o bassa, perché il suo modo proprio di essere era quello di questa vivacità, di questa curiosità incredibile. Siamo all'epilogo della sua vita del giovane Serravalli, perché tale lo è, quando la figlia propone al comune di Merano di pubblicare il manoscritto di Merano in attesa di Ezra Pound. I casi della vita sono veramente strani. Questo viene fatto attraverso una casa editrice di Trento, la Curque Genovese, con la quale io collaboravo, con la quale poi ho pubblicato anche i miei due libri di racconti, due cosucce, e l'editore mi dice: guarda, noi abbiamo qui il manoscritto, era scritto alla Serravalli, quindi pieno di correzioni, di interventi, con questa macchina da scrivere. Lui faceva tutto con la Olivetti 22, penso che non abbia mai visto un computer in vita sua, la figlia annuisce, e quindi l'editore mi chiama e mi dà questo malloppo di fogli sparsi pieni di geroglifici, e mi dice: abbiamo poco tempo, il comune di Merano è d'accordo, facciamo assieme questa pubblicazione, però bisogna che qualcuno vada a casa di Serravalli e mi fa una proposta, e mi dicono: te la senti? E io vado a casa di Luigi Serravalli, passo alcuni giorni indimenticabili con un uomo già stanco, già con problemi di salute importanti, che mi mette a disposizione parte del suo archivio fotografico. Tutte le foto che vedete in questo libro le abbiamo scelte assieme, e a me tocca il compito di correggere, sarebbe una bestemmia, di sistemare comunque il testo e di dargli un editing, e mi tocca però il compito, e questo era un po' titubante. Lui non li aveva divisi, erano dei racconti, come dire, così, ognuno era 4-5 pagine degli episodi. A me tocca il compito di dare il titolo a ogni capitolo, e mi ricordo, ho fatto questo lavoro a casa per 2-3 sere, pensavo e ripensavo, poi dovevo però presentarmi a casa di Serravalli per, come dire, per avere il via libera, perché ovviamente toccava a lui poi decidere. E lui mi dice: sì, hai fatto un bel lavoro e sono contento. E addirittura, la vita poi è strana, mi capita, poi esce questo libro, lo presentiamo, nel frattempo purtroppo Luigi muore 10 anni fa, nello stesso periodo esce una rivista, ma io non la vedo, è una rivista tedesca che voi conoscete benissimo, che è Sturz Kluger, che non penso che non esca nemmeno più, una rivista comunque letteraria curiosa, dove c'è un articolo a firma di Luigi Serravalli, il ricordo di Ezra Pound. La rivista era bilingue, non lo conosce, e poi lo regalo alla figlia. C'è un bellissimo articolo di Luigi Serravalli, le cose più o meno, rimaneggia le cose meranesi, e confesso, questa rivista ce l'ho in casa da anni, l'altro giorno la prendo in mano e vedo che alla fine, quando finisce l'articolo, che è un restò soddisfatto, questo è riferito al papà, restò soddisfatto è riferito alle frequentazioni meranese, però poi vedo che sono 4 righe scritte piccolissime, cioè nota, 2 punti, per l'interesse di Carlo Martinelli è stato stampato a Trento presso l'editore Curco Genovese un mio libro Merano in attesa di Ezra Pound. Ora scopro che mi ha anche citato e si è ricordato di me e del mio lavoro. Sicuramente una delle ultime cose, se non l'ultima, che Luigi Serravalli ha scritto. E io ho un ricordo poi particolare, poi non vi annoio più, magari fa resto, sono anche convinto che fra il gentile pubblico ci sia qualcuno che ha conosciuto Serravalli e che magari anche ha voglia di dire qualcosa, e io penso che potrebbe essere un modo anche simpatico di proseguire questo incontro, fatto salvo che signora deve, qualsiasi cosa volesse dire. No, sono sempre in favore dei dialoghi e soprattutto delle domande dirette. Ma non posso. Allora, finito questo lavoro, io esco, è il mio ultimo incontro diciamo con Luigi Serravalli vivo, sto per uscire da casa sua, e lui mi regala i suoi libri. Li ho visti tutti qua, sono 2 libri straordinari, a parte che hanno anche, come dire, sono anche introvabili perché erano stampati in copie numerate con i disegni di Lorenzo Menguzzato in arte Lome, che mi aveva promesso anche di essere qui oggi, ma anche lui non ce l'ha fatta. Sono questi 2 libri bellissimi, che sono A sirena spietata, non A sirena, e Zirudele, Strambotti, Epigrammi e altre storie. Campaisodio io non ce l'ho purtroppo. Quello è ancora super più 8. Raro. Super 8. È super 8. Questi sono i libri straordinari, libri veramente d'artista, perché poi Luigi Serravalli, qui abbiamo parlato solo dell'aspetto critico, cinematografico e artistico. E sull'aspetto di critico artistico non dimentichiamo una cosa: lui ha aiutato decine di giovani artisti, ha firmato prefazioni di cataloghi, ha organizzato mostre, era a 70 anni più giovane di certi ventenni di oggi, ve lo posso tranquillamente assicurare. Ma era anche uno che scriveva, non so se ci sarà tempo dopo, qualche cosuccia sua, a me piacerebbe leggerla, perché sono cose di una modernità e di una freschezza incredibile. Ma comunque io sto per uscire da casa sua e lui mi dice: sì, ok, guarda, prendi sto libro, lasciami fare la dedica. Ah no, la dedica me la sono fotografata, perché è sull'altro libro che era troppo grande, l'ho lasciato a casa, e io la tengo come dono prezioso, perché poi è specchio dell'uomo di Luigi Serravalli, uno che appunto che non faceva distinzione fra cultura alta e bassa, che faceva delle incursioni strane e che aveva un'idea della vita vitale, scusatemi il gioco di parole, ma anche molto vera e anche molto, molto ironica. E quindi l'ultima cosa che mi scrive è: all'amico Carlo, con nuova e speriamo lunga amicizia. Questo lo scrive, penso, 20 giorni, 30 giorni prima di morire, e io la trovo straordinaria. Va bene, c'è un attimo di commozione. La signora Sigrid, la figlia, voleva dire qualcosa? No, siccome lei ha detto se qualcuno vuole aggiungere, certo, qualcosa, non so se può interessare, ma... Vuole venire qui, signora? Sì, magari con me. Certo. Grazie. Beh, intanto trovo l'occasione per ringraziare la Valeria di quello che ha fatto per mio padre, per me personalmente. Senza la Valeria, l'assessore Cipolla, che è stato lui a prendere e a fare tutto questo lavoro sui libri, e che veramente non ho parole per ringraziare Cipolla e la Valeria. E vabbè, la Mary naturalmente, che sono riuscita a portare qui, che è difficile, però era una, cioè non una, sicuramente l'amica più cara e più grande che mio padre abbia avuto a Merano, per la quale avevo un rispetto e una, veramente una profonda amicizia che è durata una vita. E il dottor Martinelli, che ha accettato l'invito questa sera. Senza dottore. Vabbè, volevo solo aggiungere una cosa, perché è una cosa, pensavo sì, che queste cose magari si leggono, un po' si sanno, un po' si conoscono, ma lei diceva, lui andava a Bologna al cinema, faceva queste cose, nessuno sa come è partito. Mio padre aveva la mamma di Düsseldorf, il papà romagnolo, e viveva a Imola, un paesino vicino a Bologna, allora era campagna, no? E mia nonna aveva studiato in diversi collegi, cioè io non voglio dilungare, ma sarebbe una storia divertente. Cioè, mia nonna era figlia di uno che, insomma, di madre, padre, una famiglia che ha avuto la prima giostra a vapore europea. Ah, sì. I resti di questa giostra, non si sa come, sono finiti in Egitto al museo di Alessandria. Sì. Girando tutto il giro. Beh, questa famiglia, avendo questa cosa, insomma, e aveva fatto studiare le figlie in giro, quindi mia nonna aveva studiato in Olanda, a Milano, in giro dappertutto, era una donna molto colta per quei tempi, estremamente colta, sapeva un sacco di lingue, e non si sa come, insomma, incontra questo romagnolo e si sposano. Quindi lei viene lì a Imola e vive in una realtà completamente diversa da tutto quello che... Però tutto questo suo sapere, questa voglia di trasmetterlo ai suoi figli, che erano mio padre e sua sorella. Per cui mio padre mi raccontava che tutti i giorni mia nonna prendeva l'enciclopedia La Russa e leggeva una pagina ai due bambini, cioè da quando avevamo 4-5 anni. Ci metteva lì e tutti i giorni avevamo la nostra pagina della La Russa. E lei la prima volta l'ha portato a Bologna al cinema, che c'era ancora molto appena agli inizi, così l'ha portato lì e ha detto: vedi, ti faccio vedere una cosa importante. E da lì poi, ecco, quindi è solo perché questa parte non è conosciuta, non è... Mi scuso se mi sono permessa, ma sono cose che magari... Aggiunge il colore. Sì, ma... Poi un'altra cosa che mi permetto di aggiungere, che c'era un libro bellissimo di mio padre, credo che la Valeria abbia, è Disgiungere Basilea, che per me quello resta il libro più bello che abbia fatto. Comunque grazie ancora, scusate l'invasione. Forse il più bello potrebbe essere quello che... Se c'è qualche inedito, io lo so. Io ce l'ho. E allora forse il più bello è quello che riusciremo a pubblicare per qualche... Io ho diversi inediti. Mm-hmm. Allora, possiamo parlare. Ne parliamo. Bene. Luigi Serravalli ha scritto una nota biografica, che in realtà è autobiografica, che è incredibile, e che non so se in quale dei due libri compare. A distanza di un anno dalla morte, perché poi alla fine alle persone si affezionano sempre, io avevo scritto sul tuo agio un articolo il 16 novembre del 2003 e avevo riportato per intero. Io ve la leggo, è una cosa che vi porta via due minuti, ma secondo me aiuta a capire il personaggio. Luigi Serravalli è nato in qualche posto in anni ormai lontani, certo non per sua volontà. Ha seguito studi noiosi fino a una laurea in una inutile disciplina. Questa è la scheda biografica che ha voluto comparisse sul suo libro. Per 3 anni è vissuto a Cortina d'Ampezzo fra maestri di sci, campioni più o meno mondiali, artisti di passaggio, scrittori e collezionisti. Dopo, per 5 anni, lo troviamo in giro per l'Italia intento a schivare il peggio fra incongrui servizi militari, avventure a lieto fine, per sua fortuna, battaglie immaginate e combattimenti autentici, bombardamenti a tappeto e rastrellamenti a gogo. Dopo, ha detto, non mi sono mai divertito tanto come in questi tempi. In seguito ha pubblicato libri di poesia e di critica. Tiene un cassetto ricco di dattiloscritti impubblicati e forse impubblicabili. Si è occupato di filosofia, letteratura, cinema e arti visuali, sempre con una certa nonchalance. Ama il denaro solo per spenderlo, ma non ne possiede mai troppo. Il suo portolano privato comprende tutti i paesi d'Europa, meno l'Albania, ed altre contrade nei vecchi e nuovi continenti. Dappertutto ha visto che la gente lavora tutta la settimana, al weekend va allo stadio e gode un mese di ferie all'anno. Ricorda le strade polverose d'estate e fangose d'inverno. Non c'era la radio e le biciclette non avevano lo scatto libero. Le donne al canale lavavano i panni. Ora la qualità della vita è molto migliorata, ma gli uomini sono sempre gli stessi. Ama la natura e le donne, che della natura sono grandi spettacoli. Sta preparando gli amici alle feste del suo possibile esodo, ma non prima di aver celebrato con Achille Guglielmo Cavellini di Brescia nel 2014 il suo primo centenario. E questo mi sembra un bel modo di raccontare una vita e di raccontarsi appunto con ironia e distacco che non guasta mai. E a proposito di ironia e di distacco, questa macchinetta infernale lui non l'avrebbe mai usata, però è anche un po' comoda, perché oggi appunto per non portarmi dietro i libri mi sono fotografato un po' di sue poesie, di questi epigrammi, di queste cose incredibili che lui scriveva. Ovviamente le tecnologie funzionano perché poi si perdono. Per esempio questa cosa, aveva scritto una cosa che si chiamava Calendario, che è brevissima, che dice così: la giornata della mamma, San Valentino, il giorno della donna, ma quante mimose, la festa del papà, San Giuseppe lavoratore. Perché non le concentriamo tutte il 2 novembre? Poi ha scritto una cosa che si chiama... Feroce, ma era anche un uomo feroce, era un uomo... Io rileggendo oggi queste cose mi sono detto, ma perché dobbiamo parlare del lavoro di critico incredibile, ma le cose che lui ha scritto sono belle, sono proprio belle, sono cattive, sono feroci, sono di un'ironia tagliente. Poi si avanza 2 minuti, vi leggo qualcosa sull'Alto Adige che ha scritto, tanto senso. Sono a casa vostra, non è casa mia, quindi mi sento autorizzato. E questo è Zeitgeist, che è inutile che traduca, no? Dovrei lo spirito. No, dovrebbe essere inutile. Non dovrebbe essere inutile. Lo spirito del tempo. Peraltro scopro qui che c'è persino il vecchio. Per chi come me soffre quando trova errori sui giornali, che vuol dire oggi essere massacrati tutti i giorni, perché non so se voi leggete i giornali, vi capiterà di trovare questi 7-8 errori al giorno, ormai anche nei titoli fra un po'. Sì. Ho visto entrare prima un collega, dire che mi è caro è poco, che è Fabio Zamboni, che è un altro che ha diviso l'avventura di Serravalli, perché era un altro che faceva le pagine delle culture e degli spettacoli con me all'Alto Adige e che ha passato decine di articoli di Luigi Serravalli. E allora Zeitgeist di Serravalli è questo: la Belle Époque era bella ma durò poco. E poi ha scritto anche una preghiera, questa è amara. Pater Noster che sei nei cieli, toccante preghiera universale, ma senza offesa, i 13.000 bambini orfani in Nicaragua vorrebbero anche un padre loro che fosse in terra, o chiedono troppo? Era... Ah, questa poi su Dario Fo, la trovo bellissima. Dario Fo alla Radio Televisione Italiana. Sapete, Dario Fo, anni 60, venne cacciato dalla Rai, poi ci tornò. Dario Fo, anche tu in TV, meglio dire Dario Fu. Elemosine pelose. A proposito dell'attualità, io nel ricordare oggi l'articolo è stato ripreso e mi ha fatto piacere anche dall'Alto Adige, questo per l'interessamento della signora Trevisan, che mi ha chiamato e mi ha detto, perché i giornali sono strani, è uscito l'articolo che oggi avete visto appunto sull'Alto Adige, è uscito qualche giorno fa sul Trentino. Io nell'articolo parlavo delle due possibili patrie, quella che ho conosciuto io di Rovereto per Serravalli e soprattutto poi di Merano. È una prova, l'articolo non si sa perché era uscito solo sul Trentino. Allora giustamente mi scrive su Facebook, si può dire, ma insomma in questo caso serve, e mi dice: ma sarebbe bello se uscisse anche sull'Alto Adige, così può servire a presentare la cosa. E allora alla fine, dopo disperate telefonate e messaggi, l'hanno capito ed è uscito, e lì inizio oggi dicendo che Serravalli era una persona assolutamente inattuale nel suo modo di scrivere e di rapportarsi, non era mai sulle cose di moda, a lui non importavano, anzi io ho un ricordo di un articolo suo dove attaccava Sofia Loren, l'attrice, dicendo che era un'attrice a dir poco di secondo ordine, e invece magnificava un'attrice, confesso non mi ricordo assolutamente il nome, che era assolutamente sconosciuta ai più. Quindi, però questa sua inattualità in realtà lo fa essere attuale oggi, non a caso i ragazzi cercano i suoi cataloghi. E scrisse questa cosa qui, questo epigramma, non so come definirlo, sulle elemosine pelose, che è una cosa con la quale abbiamo molto a che fare tutti i giorni, perché riguarda proprio la nostra vita quotidiana, questo stare dentro questa società difficile, complessa. Sgancio 100 lire alla zingara del cantone. Più avanti la collega tende la mano sottile. Ho dato più in su, dico sussiegoso. Quanto le hai dato? Irride la nomade. 1.000.000? Poi c'era anche una su Aldo Busi, ma sì, dai, la leggiamo. Sodo mie, caro Busi, la mi scusi, sodo sue. Questa è un po' irrispettosa. Poi i critici d'arte, ma in realtà erano, no, queste le ho lette tutte, la nota biografica, però poi, sto annoiando signora? No, perché l'aria non è andata, oddio. A me piacerebbe sentirla ancora parlare, perché mi spalanca dei mondi e delle cose, sarà venuto in mente sicuramente qualcosa di questo personaggio. Ma no, io tutte queste cose confesso di non averle lette. Perché io invece ricordo delle poesie molto commoventi alle quali appunto, no, dove diceva qualcosa di quando era bambino insieme a sua sorella e ci sono di mezzo dei guanti, non me le ricordo a memoria logicamente, ma ci sono delle poesie molto tenere, quindi voglio dire non era solo quello spirito caustico. Non era solo Betriolo, ma aveva profumi e unguenti, li vedo, aveva anche il senso della cosa, se mi permettete. Allora, a questo punto ce n'è una sul padre, bellissima, questa madre tedesca eccetera lo portava tutti gli anni in vacanza in Alto Adige, in Valpusteria, per cui lui amava la cultura mitteleuropea in modo particolarissimo, perché sua madre tutti i giorni è cosa, ed aveva un legame con l'Alto Adige che ha mantenuto per sempre fortissimo. Scriveva alcune poesie lui e sua sorella con Loren che passeggiavano in giro, e ci sono dei quadretti, dei momenti bellissimi. Ce n'è uno, non so, se mi permette, certo. È quella che porta il suo nome nel titolo. Posso leggerla? Sì, sì. Tacchi alti non sostengono la tua anima bambina, deboli puntelli al futuro, trama di musica sottile sul nostro avvenire, ma ad ogni voce la sua parte di cielo. Grazie. Poi ce n'è una sul papà, è proprio vero, è confesso, ecco, mi è piaciuto molto la nonchalance con la quale la signora De Rackabitz ha detto: non le ho lette queste cose, non le conosco. Noi viviamo in un mondo, almeno io vivo in un mondo, dove ogni volta che mi trovo a parlare con qualcuno, tutti hanno letto tutto e sanno qualsiasi cosa. Io mi sono stancato di questa cosa, perché dopo aver sentito, questo non sono sicuro, era una velina di Striscia la Notizia, una di quelle che poi probabilmente è finita nei giri del nostro amato ex presidente del Consiglio. Io ricorderò sempre un'intervista televisiva a una di queste qua, e gli hanno chiesto: che cosa sta leggendo? E questa, candidamente, avrà avuto 20 anni, guarda e dice: ah, io sto rileggendo Alla ricerca del tempo perduto di Proust. Lo stava rileggendo. Sì. Ecco, allora io da quel giorno ho deciso che se un libro non l'ho letto, non l'ho letto, è umanamente impossibile. Escono 60.000 libri nuovi all'anno in Italia. Permettete a un povero disgraziato di non poter leggere tutto. Io, per esempio, ho letto molte cose di Luigi, non avevo... confesso, non avevo mai visto questo libro, me lo sto divorando adesso velocemente. È un libro che lui ha fatto molti anni fa. Le chiederò la fotocopia. E ha tenuto poi così, non era una cosa a cui... cioè è una cosa che a cui teneva con affetto. Intimamente, non voleva che fosse... Però due cose le leggo da questo libro ancora. Una dedicata al papà, mio padre, che è bellissima. C'è quella della sua sorella, quando camminano con loro nelle mantelline, che è bellissima. Che bella, sì. E Pound diceva sempre che se si ricorda una poesia o un poeta, allora vuol dire che era buona. E lui la ricordava? No, lui non la ricordava. La ricordo io. Averla letta, averla letta 50... Sì, quanti anni fa? 40 anni sì, fa. Sì, questo è un libro del 60, 58. 63, Centro di Cultura Altoa, sì, sì. Sì, negli anni 61. Parliamo del 1960 che l'avrò letta io, quindi se ancora la ricordo dal 60. Beh, intanto che la cerco, che la trovo, c'è anche questa dedicata al padre che trovo straordinaria. Mi mise sul cavallo innanzi a sé. Così guadammo il Santerno proprio vicino al ponte degli Alidosi, 2 anni dopo la prima guerra mondiale. Mio padre, tornato da poco, mi fece uomo a cavallo con lui verso Castel del Rio. C'è una bellissima sull'Alto Adige, che ho visto il volo che... Mio nonno, che andò volontario in bicicletta a quella guerra, si è andato volontario in bicicletta. Mamma mia. Ce n'è una che si intitola Corsa, per posto di Merano. Orchestrina fin de siècle rovescia, su di un parterre di lanute befane, Strauss e Ivanovic, lontano, solo un poco di fumo, da Auschwitz e Bergen-Belsen. E questa... E questa... Beh... Intanto che magari c'è qualcun altro che ci racconta qualcosa di Luigi Serravalli, intanto che io non la trovo. Posso raccontare una discussione e come discuteva tra Serravalli, Scena e Mascagni. Ve la immaginate una discussione molto accentuata quando si alzano le voci? Ecco, quello è un ricordo che ho di Serravalli. Un altro ricordo ce l'ho, che ci ha accompagnato Guttuso a una mostra qui in Piazza Dominicani, e un altro ricordo che ho di che è venuto appositamente, che era a Rovereto, all'incontro a visitare una mostra anche visitata da Berlinguer tanti anni. La prima lezione di storia dell'arte al liceo a Merano, il primo giorno, dice: ragazzi, sappiate che con l'arte non si mangia. È stato il suo primo esordio. Abbiamo dimenticato colpevolmente insegnante. Io trovo gente che ha avuto insegnante, a Rovereto dove ha insegnato l'istituto magistrale. Lui è stato mio marito ed è stato suo scolaro a Merano, alla ragioneria, istituto tecnico. Sentir raccontare aneddoti di scuola è una roba. Secondo me sono dei privilegiati però quei ragazzi. Un muscolino si chiamava Muscellin. E allora io rispondevo, il ciclope ha parlato. Perché avevo un occhio sempre un pochettino più chiuso dell'altro. Ce n'è una dedicata a Hemingway, ma io questa qui non la trovo mica. Lui era veramente innamorato, entusiasta di Hemingway. Sì, sì. È stato l'amore della sua vita. Sì, sì, sì. E poi lì è descritto, c'è stato un incontro in cui, cioè Hemingway, anche perché devo dire una cosa importante, mio padre non ha mai avuto, diciamo, soldi, robe, perché a lui premeva scrivere, fare, per queste avanguardie pazzesche, per queste cose, e soprattutto gli piaceva quando trovava un giovane disperato, senza soldi, allora ecco che seguiva quello, lo aiutava, faceva, e ha avuto un pregio secondo me enorme, che nella sua vita non ha mai scritto una riga per qualcuno che non stimasse, si è sempre rifiutato. Quindi non era mai verso il potere, verso la gloria, verso la cosa. Se lo faceva perché ci credeva, se no potevi morire e non ti diceva neanche ciao. E questo per me è importante. Era lui. Sì, io ho avuto delle dispute sull'arte astratta, perché lui amava l'arte, però era anche dissacrante e quindi sosteneva pittori come Giuffuso del realismo socialista, che noi invece non avevamo assolutamente nessuna simpatia. Lui ha fatto cataloghi per Giuffuso, è stato amico tutta la vita, è venuto a Merano, siamo stati insieme. Aveva insomma questa inclinazione verso il PC che anche noi contestavamo, pur essendo tutti ideologicamente di sinistra. E quindi io ho anche delle belle lettere di Luigi con queste nostre dispute, addirittura... Chissà cosa ne penserebbe oggi delle primarie. Sì. Vabbè. E io sottolineo che era Fontana il grande artista che avevamo in Italia e nel mondo, e che Picasso passerà e Fontana resterà. Adesso un po' di anni non è passato Picasso, chiaramente... Però Picasso è un fenomeno eminentemente di mercato, no? Pochi studiosi d'arte citano Picasso, a parte il periodo cubista. E Fontana invece. Fontana, questi sono discorsi che facevamo a metà degli anni 60, tutto questo. Io avevo una piccola galleria d'arte, quindi avevamo questa quasi, io direi settimanale, perché ogni volta che tornava da Rovereto a Merano, passava. Il sabato mattina si fermava. Per molto tempo è andato su e giù. Lui faceva il pendolare tra Roma. È rimasto a Merano a abitare per moltissimi anni, pur lavorando a Rovereto. E poi al Rovereto di Rovereto pranzavamo assieme e facevamo delle. Scusate la citazione personale. No, ma sono cose che mi piacciono molto perché danno anche, l'ho detto prima, sembriamo forse un po' troppo nostalgici e non dovrebbe essere così, però sicuramente la vivacità culturale e l'attitudine al confronto è una cosa che secondo me manca molto oggi invece nel tessuto, gli stessi organi di informazione che allora riuscivano, forse avevano anche un altro modo di essere tutto così veloce, tutto conciso, tutto veloce, tutto breve, vabbè. E questa è quasi profetica, perché lui ha scritto una cosa sullo scrivere, dello scrivere, su poche righe, ma molti scrivono, scriveva Serravalli, perché sono grafomani, un vero schifo. Lo scrivere è un atto secondario, importante è riflettere. Ma per la natura del nostro cervello, che pensa ma non trattiene, conviene, se si vuole dare un senso alla vita, conviene, ripeto, scrivere. Così il pensato scritto lotta contro il tempo. Per questo lo scrittore, il poeta, il filosofo, il narratore è l'uomo migliore, colui che pensa per gli altri e documenta, diffonde e racconta il suo pensiero. Quando un pensiero è molto profondo, allora diciamo che ci è stato dettato dall'angelo. Se invece ci porta alla rovina, ci pare lo abbia suggerito il demonio. Ma siamo sempre noi ad agitare il bussolotto e a buttare i dadi. Scrivere è dunque registrare il meglio della nostra vita, ciò che vale molto di più dei miliardi ammassati, ma meno degli atti d'amore. L'amore è una favola ancora più strana. E quindi abbiamo i diari di Proust, che sulla sua ricerca si è interrogato prima di morire, così a lungo da lasciarci 7 volumi di memorie, sì, appunto quelli che leggeva la velina. Era per lui come un obbligo, una lotta contro il tempo, un battere la morte sul filo di lana per lasciarci quello che il suo cervello stupendo aveva potuto comprendere dall'avventura parigina della sua vita. Coloro che cercano nei libri il come va a finire non sono soddisfatti da scrittori come Proust, Musil, Joyce, Rilke, Hölderlin, Kafka o Pessoa. A loro piacciono i cipersetti, le cavalline storne, i contadini che pregano di Millet, ma Segantini è un'altra cosa. La morte gli tiene in mano il pennello mentre dipinge le sue vivissime montagne. Sopra i 3000 Segantini dipinge la verità. Beh, insomma, definirlo attuale e moderno mi sembra poco. Lo definivamo il pittore con gli scarponi, ma in questo suo eclettismo anche artistico Stradavalli era anche di critico era secondo me alla stanga. Beh, ma abbiamo un tenace difensore dell'astrattismo, non può rinnegare il suo percorso. E guardo Valeria per capire se un'ora mi sembra, io dico sempre che quando vado a sentire qualcuno parlare dopo un'ora mi annoio, sentendo me vi siete annoiati molto prima, però per fortuna che c'era la signora. Beh, mio padre diceva che più di 10 minuti la gente non può prestare attenzione. Ecco, questa non la so. 10 minuti. 10 minuti davanti. Allora abbiamo, allora siamo veramente bravi. Ma va bene. Possiamo fare le vedine. Io ringrazio Mary Drakevich, è stato un piacere essere al suo fianco e sentirla parlare. Ringrazio Valeria Trevisan che ha voluto ricordare. Grazie. Un personaggio indimenticabile. Grazie. E che secondo me fra 10 anni saremo ancora qui, perché è incredibile, ho avvertito in questi giorni dopo le poche cose che ho scritto quanto affetto e come sia ancora ricordato, il che mi fa pensare a un'altra cosa in realtà, che ci manca proprio perché al suo posto altri nella stessa maniera non hanno saputo prendere la penna in mano, e questo un po' mi dispiace perché insomma non depone a favore neanche della categoria, ma insomma la categoria è talmente distrattata ormai che non mi ci metto neanche a difenderla, è indifendibile. Grazie. Invece a Luigi. Grazie. Un applauso a Luigi. Grazie.